gente assai curiosa narrava con piacere di questa coppia le più strane imprese. Lui grande cacciatore di farfalle girava a catturarle notte di, e lei pescava i gamberi in gondola, in gondola, e lei pescava i gamberi in gondola sul mar. E i giovanotti in gingheri, vedendola, vedendola, uscivano dai gangheri, vedendola passare. La gente non credeva, dubitava e mormorava, qualcuno si chiedeva senza rete come fa. E lei pescava i gamberi in gondola, in gondola, e lei pescava i gamberi in gondola sul mare. Le farfalle più rare e più pregiate che lui con grande amor collezionava, finite le vacanze non furono trovate perché con quelle proprio le pescava. E quando lui si accorse della cosa, dal gran dolore un colpo si sparò e le pescava i gamberi in gondola, in gondola, e le pescava i gamberi in gondola sul mar. E giovanotti in gingheri, vedendola, vedendola, uscivano dai gangheri, vedendola passare. La gente non credeva, dubitava, mormorava, qualcuno si chiedeva senza rete come fa. E lei pescava i gamberi in gondola, in gondola, e lei pescava i gamberi in gondola sul mare.